E tuttavia, strano a dirsi, sotto questo energico trattamento Tom divenne molto più vulnerabile di quanto fosse stato per tutto il tempo precedente della sua vita. Aveva una buona dose d'orgoglio che fino allora si era sempre trovata benissimo a questo mondo, disprezzando vecchie lanterne e riposando sulla sensazione di indiscussi diritti. Ma ora, a quello stesso orgoglio, non toccava più se non d'essere fiaccato e vilipeso. E Tom era troppo chiaroveggente per non rendersi conto che il livello di Mr. Stelling era alquanto differente, anzi, agli occhi del mondo, alquanto superiore a quello della gente tra cui egli era sempre vissuto. E che messo a paragone con simile livello, lui, Tom Tulliver, ci faceva la figura del goffo e dello scimunito. Alla qualcosa egli non si sentiva appunto indifferente e il suo orgoglio era messo in uno stato di malessere che distruggeva tutta la sua contentezza di sé e lo rendeva molto suscettibile. Di temperamento era molto fermo, per non dire ostinato, ma per natura era alieno dalla brutale ribellione e dalla sornioneria. La suscettibilità d'uomo predominava in lui, e se gli fosse venuto in mente che, stando magari su un piede per un periodo di tempo tutt'altro che breve, o picchiando modestamente la testa contro il muro, o con altre azioni volontarie del genere, poteva arrivare a dimostrare qualche vivacità alle lezioni e meritarsi l'approvazione di Mr. Stelling, ci si sarebbe certamente provato. Ma no, Tom non aveva mai inteso dire che siffatti sistemi schiarissero l'intelligenza e rinforzassero la memoria verbale, ed egli non era portato alle ipotesi e agli esperimenti. Gli venne in mente che qualche soccorso l'avrebbe potuto ottenere pregando, ma siccome le preghiere che recitava ogni sera erano formule imparate a memoria, si sentiva piuttosto intimidito di fronte alla novità e irregolarità di introdurre un passaggio improvvisato avente per oggetto una petizione di cui non conosceva alcun precedente. Ma un giorno in cui egli era caduto per la quinta volta sui supini della terza coniugazione, e Mr. Stelling, persuaso che fosse per negligenza, dal momento che ciò passava tutti i limiti della stupidaggine, l'aveva rimproverato molto seccamente, dimostrandogli che se perdeva quest'aurea occasione di imparare i supini, l'avrebbe poi rammaricato quando fosse divenuto uomo, Tom, più infelice del solito, decise di tentare la sua unica risorsa. Quella sera, dopo la sua solita preghiera per i genitori e la piccola sorellina, aveva cominciato a pregare per Maggie fin da quando era piccina, e che gli fosse concesso di osservare sempre i comandamenti di Dio, aggiunse col medesimo tono di voce sommessa: «E ti prego di far che io ricordi sempre il mio latino». Si fermò un momento per pensare come poteva pregare per Euclide, ma se doveva chiedere che gli fosse dato di comprendere che significasse, o se c'era qualche altro stato mentale più appropriato al caso. Ma alla fine soggiunse: «E fa che Mr. Stelling dica che io non debbo più studiare Euclide. Amen». Il fatto che all'indomani egli aveva snocciolato i suoi supini senza uno sbaglio lo incoraggiò a perseverare in questa appendice di preghiera e neutralizzò ogni scetticismo che fosse potuto sorgere dalla perseveranza di Mr. Stelling nell'interrogarlo su Euclide. Ma la sua fede piegò sotto l'evidente assenza di ogni soccorso quando egli giunse ai verbi irregolari. Risultò chiaramente che la disperazione di Tom di fronte ai capricci del tempo presente non costituiva più un nodus degno dell'intervento divino. Ma dal momento che era questo il massimo delle difficoltà, a che pregare ancora soccorso? Si fermò su questa conclusione durante una delle serate tetre e solitarie che trascorreva nello studio a preparare le lezioni per l'indomani. I suoi occhi erano soggetti ad annebbiarsi sulla pagina, quantunque egli detestasse di piangere e ne avesse vergogna. Non poteva difendersi dal pensare con una certa tenerezza perfino a Spouncer, col quale pure era stato solito di bisticciare e di venire alle mani. Con Spouncer si sarebbe trovato bene in condizioni di superiorità. E poi il mulino e il fiume e Yap che rizzava le orecchie, pronto a obbedire al minimo cenno quando Tom gli gridava «Qui!». Tutto gli tornava presente in una specie di delirio febbrile, mentre le sue dita giocavano smemorate nelle tasche, col grosso temperino e il gomitolo di spago e altre reliquie del passato. All'epoca dei verbi irregolari, L'animo di Tom era ancora più depresso da un nuovo sistema di sviluppo mentale che era stato escogitato per lui fuori delle ore di scuola. Mrs. Stelling aveva avuto di recente il secondo bambino e siccome per un ragazzo non c'è nulla di più salutare che il sentirsi utile, Mrs. Stelling pensò che avrebbe reso un servizio a Tom dandogli da sorvegliare quel piccolo cherubino di Laura, mentre la bambinaia era occupata col pupo ammalato. Far uscire la piccola Laura nelle ore più soleggiate di quei giorni d'autunno sarebbe stato per Tom un incarico molto gradevole e l'avrebbe aiutato a sentire che la curia di Lorton era per lui come casa sua e che egli vi era di famiglia. Quel piccolo cherubino di Laura, non essendo ancora una perfetta camminatrice, aveva una fascia assicurata intorno alla cintola con cui Tom la sorreggeva come fosse stata un cagnolino durante i momenti in cui ella aveva voglia di camminare. Ma siccome questi erano rari, per la maggior parte del tempo gli doveva portarsi in braccio quella graziosa bimba per il giardino, in vista della finestra di Mrs. Stelling, secondo gli ordini. Se qualcuno giudicasse che questo era sleale verso Tom, o comunque oppressivo, lo pregherei di riflettere che ci sono delle virtù femminili che difficilmente vanno insieme, anche se non sono incompatibili tra di loro. Quando la moglie di un povero curato arriva, pur tra tutte le sue difficoltà, a vestirsi estremamente bene, a portare una forma di acconciatura che esige che la sua bambinaia debba a volte far l'ufficio di una cameriera, quando per giunta i suoi inviti a pranzo e i suoi ricevimenti mostrano quello sfarzo di eleganza e quella finitezza di apparato per cui le donne comuni supporrebbero necessario un largo reddito, sarebbe irragionevole attendersi che l'assuma una seconda bambinaia, o comunque faccia lei stessa da bambinaia. Mr. Stelling se ne intendeva, vedeva che sua moglie faceva già dei miracoli e andava fiero di lei. Il portare in braccio un pesante bimbo non era certo l'ideale per l'educazione fisica del giovane Tulliver, ma egli faceva già tanto esercizio nelle sue lunghe passeggiate da solo e poi per il prossimo semestre Mr. Stelling avrebbe veduto di prendere un istruttore militare. Tra gli svariati mezzi, in grazia dei quali Mr. Stelling contava di fare più fortuna che la massa dei suoi confratelli, egli metteva assolutamente in prima linea il fatto di essere padrone in casa propria, che dunque aveva sposato la più gentile piccola anima che avesse mai respirato, a parere di Mr. Riley, il quale aveva stretto amicizia coi biondi riccioli e col sorridente aspetto di Mrs. Stelling fin da quando ella era signorina. E in forza di tale amicizia, sarebbe stato pronto in qualsiasi momento a dichiarare che qualunque contrasto domestico potesse sorgere nella vita coniugale di lei era interamente imputabile a Mr. Stelling. Se Tom avesse avuto un peggior carattere, certamente avrebbe odiato quel piccolo cherubino di Laura, ma era un ragazzo di buon cuore, c'era in lui una buona fibra che si esprime in virile fermezza e in pietà protettrice verso i deboli. Temo che egli odiasse Mrs. Stelling fino a contrarre un'antipatia permanente contro i riccioli biondi e le larghe trecce, come quelli che si associavano direttamente con l'alterigia dei modi e le frequenti allusioni ai doveri altrui. Ma non poteva trattenersi dal giocare con la piccola Laura e dal prender gusto nel farla divertire. In suo onore giunse perfino a sacrificare le proprie cartucce, disperando di potersene mai servire per più grandi scopi e pensando che il piccolo lampo e la detonazione avrebbero deliziato la piccina. E la conseguenza fu di attirarsi un rimprovero da Mrs. Stelling per aver insegnato alla sua bambina a giocare col fuoco. Laura era una specie di compagno di giochi e, oh, quanto Tom desiderava di avere dei compagni di gioco. Nel segreto del suo cuore anelava di avere Maggie con sé. Ed era quasi disposto a sentire una folle tenerezza per i suoi esasperanti atti di distrazione, sebbene quando era a casa avesse sempre dichiarato che era un grande favore da parte sua il permettere che Maggie gli trottasse a fianco durante le sue escursioni di piacere. E prima che quel tetro semestre terminasse, ecco che giunse Maggie. Mr. Stelling aveva fatto un generico invito alla ragazzina che venisse a stare un po' col fratello, sicché quando Mr. Tulliver si recò al King's Lorton, nel tardo ottobre, Maggie lo accompagnò con la sensazione di compiere un grande viaggio e di cominciare a vedere il mondo. Era la prima visita che Mr. Tulliver faceva a Tom, perché il ragazzo doveva imparare a non pensare troppo alla sua casa. Bene, ragazzo mio, egli disse a Tom quando Mr. Stelling ebbe lasciato la camera per annunziare l'arrivo alla moglie, e Maggie aveva cominciato a baciare liberamente Tom. Hai un aspetto magnifico. La scuola ti si confà. Tom avrebbe preferito ad avere un aspetto un po' malaticcio, invero. Oh, non credo di star bene, babbo, disse Tom. Desidererei che tu pregassi Mr. Stelling di non farmi studiare Euclide. Mi dà il mal di denti, credo. Era la sola malattia a cui Tom fosse stato soggetto. Euclide, ragazzo mio, ma che cos'è? Domandò Mr. Tulliver. Oh, non lo so, sono definizioni, assiomi, triangoli e chissà cos'altro. È un libro che ho da studiare, ma non ha nessun senso. Oh, via, via, disse Mr. Tulliver in tono di rimprovero. Non devi parlare così. Devi studiare quel che ti dice il tuo maestro. Lui sa bene quello che è giusto che tu impari. Ora ti aiuterò io, Tom, disse Maggie con una piccola arietta di protezione consolatrice. Sono venuta qui per fermarmi tutto il tempo che Mrs. Stelling vorrà. Ho portato il mio bagaglio e i miei grembiali, ne è vero, babbo? Tu aiutarmi? Piccola scema, disse Tom, sentendosi così animato da quell'annunzio che si rallegrava già tutto all'idea di confondere Maggie, mostrandole una pagina di Euclide. Mi piacerebbe di vederti fare una delle mie lezioni, e poi imparo anche il latino io. Queste cose le ragazze non le imparano, sono troppo stupide. So benissimo che cos'è il latino, disse Maggie con sicurezza. Il latino è una lingua. Nel dizionario ce ne sono delle parole latine, c'è bonus, un dono. Ebbene, stavolta l'hai proprio sbagliata, Miss Maggie, disse Tom segretamente stupito. Tu ti credi di saperla lunga, ma bonus per combinazione vuol dire buono. Bonus, bona, bonum. Bene, non c'è nessuna ragione che non voglia anche dire dono, disse Maggie coraggiosamente. Può voler dire molte cose, come quasi tutte le parole. C'è ben lawn, che vuol dire tanto il prato quanto la stoffa con cui si fanno i fazzoletti. Ah, ben trovata, piccola, disse Mr. Tulliver ridendo, mentre Tom si sentiva piuttosto disgustato dalla scienza di Maggie. Quantunque lo rallegrasse straordinariamente l'idea che ella sarebbe rimasta con lui, la vanità di Maggie sarebbe stata ben presto fiaccata da un effettivo esame dei suoi libri. Mrs. Stelling, nei suoi calorosi inviti a Maggie, non aveva mai accennato ad una permanenza di più che una settimana. Ma Mr. Stelling, che l'aveva presa fra i ginocchi e le aveva domandato dove mai aveva rubato quei suoi occhi neri, insisté che doveva fermarsi 15 giorni. Maggie pensò che Mr. Stelling era una persona affascinante e Mr. Tulliver era molto fiero di lasciare la sua piccina in un luogo dove avrebbe avuto occasione di mostrare la propria intelligenza ad estranei in grado di apprezzarla. Così fu convenuto che non sarebbe stata ricondotta a casa fino a 15 giorni dopo. E adesso vieni con me nello studio, Maggie, disse Tom quando il babbo fu partito. Ma perché scuoti e scrolli la testa così, scemina? Seguitò. E infatti, per quanto i capelli di lei fossero ora composti in una nuova acconciatura, ben lisciati e ravviati dietro gli orecchi, pareva tuttavia che ella si immaginasse ancora di doverseli scrollare via dagli orecchi. Ti dà l'aria di una matta? Oh, non posso farne a meno, disse Maggie con impazienza. Non mi tormentare, Tom. Oh, quanti libri! Esclamò quando vide gli scaffali nello studio. Come mi piacerebbe di avere tanti libri così! Ma se non ne sapresti leggere manco uno, disse Tom con aria di trionfo, sono tutti latini. No, che non lo sono, disse Maggie. Posso leggere sul dorso di questo: Storia della decadenza e della caduta dell'impero romano. Beh, e cosa vuol dire? Tu non lo sai, disse Tom scuotendo il capo. Oh, ma farei presto a saperlo, rispose Maggie sprezzante. Ah sì? E in che modo? Guarderei dentro e vedrei di che si tratta. Ah, meglio non farne niente, Miss Maggie, disse Tom, vedendola mettere le mani sul libro. Mr. Stelling non permette a nessuno di toccare i libri senza il suo permesso, e sarò io a buscarmi la sgridata se tu lo tiri giù. Oh, va bene. Fammi vedere tutti i tuoi libri, allora, disse Maggie, volgendosi per mettere le braccia intorno al collo di Tom e sfregargli sulle guance il suo piccolo naso rotondo. Tom Felice in cuor suo d'aver di nuovo la piccola vecchia Maggie con cui bisticciare e fare lo spaccone, l'afferrò per la vita e si mise a danzare con lei, intorno al grande tavolo della biblioteca. E via! Danzarono con sempre e sempre più slancio finché i capelli di Maggie le sfuggirono di dietro gli orecchi e si contorsero su se stessi, come fossero animati. Ma le evoluzioni intorno al tavolo divennero sempre più irregolari nella direzione finché raggiunsero alla fine la piccola cattedra di Mr. Stelling. La travolsero sul pavimento con tutti i suoi pesanti dizionari, facendo il rumore di un tuono. Fortunatamente erano a pian terreno e lo studio formava un'ala isolata, un solo piano, sicché quel tonfo non produsse risonanze allarmanti. Quantunque Tom rimanesse là, stordito e impietrito per qualche minuto, temendo la comparsa di Mr. o Mrs. Stelling. Oh, ti dico io, Maggie, concluse finalmente Tom rialzando la cattedra. Qui bisogna star buoni, capisci? Se rompiamo qualcosa, Mrs. Stelling ci farà gridare peccavi. E che cos'è? Disse Maggie. Oh, è latino per dire una buona sgridata, spiegò Tom, non senza una punta d'orgoglio per il proprio sapere. È una donna cattiva, Mrs. Stelling, disse Maggie. Lo credo bene, disse Tom, annuendo energicamente. Credo che le donne siano tutte più cattive che gli uomini, disse Maggie. Zia Glegg è tanto più cattiva che zio Glegg, e la mamma mi sgrida più che il babbo. Già, ma anche tu un giorno sarai una donna, disse Tom, dunque non devi parlare. Ma io sarò una donna istruita, disse Maggie con un cenno del capo. Ho ben paura. E sarai un essere detestabile e vanitoso, io ti odierò. Oh no, Tom, non lo farai. Io non sarò antipatica e con te sarò molto buona con tutti. No, che non mi odierai, né vero, Tom? Oh, mi secchi, non me ne importa. Via, è ora che io studi le mie lezioni, guarda qui che cosa ho da fare, disse Tom, traendo a sé Maggie e mostrandole il suo teorema, mentre ella si rassettava i capelli dietro gli orecchi e si preparava a mostrare la propria capacità di aiutarlo in Euclide. Cominciò a leggere con piena fiducia nei propri mezzi, ma ecco che, trovandosi completamente disorientata, arrossì di contrarietà. Era inevitabile, doveva confessare la propria incompetenza e non aveva alcuna fantasia di umiliarsi. Non ha senso, esclamò, è un brutto pasticcio e non c'è nessun bisogno di decifrarlo. Ah, eccoci, Miss Maggie, disse Tom, portandole via il libro e tentennando il capo verso di lei. Vedi che non sei poi così intelligente come ti credevi? Oh, disse Maggie imbronciata, credo che potrei benissimo capire se avessi studiato quel che viene prima come te. Ma è proprio quello che non riusciresti a fare, signorina Sapienza, disse Tom. Diventa ancora più difficile quando si sa ciò che viene prima, perché allora bisogna saper dire qual è la definizione 3 e qual è l'assioma 5. Ma metti un po' in disparte adesso. Qui c'è la grammatica latina, vedi un po' cosa ti riesce di capirne. Maggie, dopo il suo fiasco matematico, trovò la grammatica latina del tutto consolante perché si divertiva alle parole nuove e scoperse subito che c'era in fondo al libro un dizionarietto in inglese che poteva renderla con poca fatica molto esperta di latino. Decise subito di saltar le regole di sintassi, tanto la attiravano gli esempi, quelle frasi misteriose staccate da un testo sconosciuto, come strane corna di animali o foglie d'alberi ignoti portate da regioni lontane, offrivano un campo sterminato alla sua immaginazione. E riuscivano tanto più affascinanti perché suonavano in una loro lingua particolare che ella poteva imparare a comprendere. Era proprio molto interessante quella grammatica latina che secondo Tom le ragazze non potevano imparare. E Maggie era fiera di trovarla interessante. Gli esempi più frammentari erano i suoi prediletti, Mors omnibus est communis. Non le avrebbe detto nulla se non le fosse piaciuto di conoscerla in latino. Ma quel fortunato signore con cui tutti si rallegravano perché aveva un figlio dotato di tali disposizioni, le forniva una bella messe di piacevoli congetture, ed ella era completamente perduta nella spessa foresta in cui non penetra nessuna stella, quando Tom la chiamò. Su, Maggie, dammi la grammatica adesso. Oh, Tom, è un così bel libro. esclamò balzando giù dalla grande poltrona per porgerglielo. Molto più bello che il dizionario. Io lo imparerei molto presto il latino. Non lo credo niente difficile. Oh, lo so che hai fatto tu, disse Tom. Hai letto l'inglese in fondo. Ogni asino saprebbe. Tom afferrò il libro e lo aprì con aria decisa e indaffarata, come a dire che aveva da imparare una lezione in cui gli asini avrebbero fatto cilecca. Maggie, piuttosto piccata, si volse verso lo scaffale per giocare a comprendere i titoli dei volumi. Subito Tom la chiamò. Qui, Maggie, vieni a sentire. Se la so. Tu sta da quest'altra parte del tavolo dove si siede Mr. Stelling quando mi interroga. Di dove cominci, Tom? Oh, comincio da Appellativa Arborum, perché devo recitare da capo tutto ciò che ho studiato questa settimana. Tom navigò alla perfezione per 3 righe e Maggie cominciava a scordarsi del proprio ufficio di suggeritrice per congetturare che mai potesse significare mas, che tornava 2 volte quando egli si formò di botto a sunt etiam volucrum. Non dirmelo, Maggie. Sunt etiam volucrum, sunt etiam volucrum ut ostre acetus. No, disse Maggie aprendo la bocca e scrollando il capo. Sunt etiam volucrum, disse Tom molto adagio, come aspettando che le parole seguenti dovessero venire più spedite dal momento che gli lasciava loro quell'energico avviso che si stava attendendo. C e U, disse Maggie facendosi impaziente. Oh, lo so, tieni in freno quella lingua, disse Tom. Ceu passer hirundo, ferarum. Ferarum. Tom prese la matita e fece parecchi segni aguzzi sulla copertina del libro. Ferarum. Oh, caro Tom, disse Maggie, quanto tempo ci metti? Ut. Utostrea? No, no, disse Maggie, ut tigris. Oh, sì, ora ce la faccio, disse Tom. Era tigris vulpes, e me n'ero scordato, ut tigris vulpes et piscium. Con parecchi altri balbettamenti e ripetizioni, Tom varcò le poche linee seguenti. Ed ora, disse, quel che viene dopo è la lezione che ho studiata per domani. Dammi un momentino il libro. Dopo un po' di borbottamento, sottovoce, accompagnato dal battito del pugno sul tavolo, Tom restituì il libro. Mascula nomina in A, cominciò. No, Tom, disse Maggie, non è questo che viene dopo, è Nomen non crescens genitivo. Ah, crescens genitivo? Esclamò Tom con un ghigno di derisione, perché egli aveva imparato questo passaggio omesso per la lezione della vigilia. E un giovane gentiluomo non ha bisogno di intime ed estese conoscenze di latino per avvertire il miserando assurdo di un errore di quantità. Crescens genitivo? Che piccola scema che sei, Maggie. Beh? Non c'è tanto da ridere, Tom, perché tu non te ne ricordavi affatto. Sono sicura che è scritto così. Come potevo sapere la pronuncia? Pah! Te l'ho detto che voi altre ragazze non potete imparare il latino. Si dice nomen non crescens genitivo. Sta bene allora, disse Maggie imbronciata. So dirlo quanto te. E poi tu non fai attenzione alle pause, perché ai 2 punti devi fare il doppio di pausa che alla virgola. E invece tu fai le pause più lunghe dove non c'è pausa affatto. Vabbè, vabbè, non tante ciance, lasciami andare avanti. Ben presto furono chiamati a trascorrere il resto della serata in salotto e Maggie si fece così animata con Mr. Stelling, il quale ne era sicura ammirava la sua intelligenza, che Tom si sentì piuttosto sbalordito e allarmato da tanta audacia. Ma ecco che ad un tratto ella fu mortificata da un'allusione di Mr. Stelling a una certa bambina di cui si era sentito parlare che era fuggita presso gli zingari. Una bambina davvero stramba deve essere, disse Mrs. Stelling con l'intenzione di scherzare. Ma uno scherzo che si ritorceva sulla sua supposta stramberia non era punto nel gusto di Maggie. Ebbe timore che Mr. Stelling, dopo tutto, non si fosse fatto una grande opinione di lei. Andò a coricarsi con l'animo parecchio abbattuto. Mrs. Stelling, lo si sentiva, la guardava come se pensasse che i suoi capelli erano molto brutti perché le pendevano giù dritti dietro la testa. E non di meno, le 2 settimane della visita a Tom furono per Maggie molto felici. Le era concesso di stare nello studio mentre gli faceva le sue lezioni e con le sue svariate letture si sprofondò molto addentro negli esempi della grammatica latina. L'astronomo, che odiava le donne in genere, le fece sorgere tante così intricate congetture che un giorno la domandò a Mr. Stelling se tutti gli astronomi odiavano le donne o se era solo quell'astronomo in particolare. Ma poi, prevedendo la risposta, disse: «Credo che siano tutti gli astronomi perché, sapete, essi vivono chiusi dentro le torri e se ci vanno le donne, quelle possono parlare e impedirgli di guardare le stelle». Mr. Stelling amava immensamente quel suo chiacchiericcio e i loro rapporti erano dei più cordiali. Ella diceva a Tom che le sarebbe piaciuto di frequentare come lui la scuola di Mr. Stelling e di imparare proprio quelle stesse cose. Sapeva che avrebbe potuto fare Euclide perché, tornando a guardarci, aveva capito che cosa significassero A, B, C. Erano i nomi delle linee. «E io invece sono sicuro di no», disse Tom, «e voglio giusto appunto chiederlo a Mr. Stelling se ci riusciresti». «Oh, non importa», disse la vanitosa pettegolina, «glielo domanderò io stessa». E quella sera, quando furono nel salotto, Mr. Stelling disse: «Non potrai fare Euclide e tutte le altre lezioni di Tom se voi insegnaste a me invece che a lui?» «No che non potresti», disse Tom sdegnato, «le ragazze non possono fare Euclide, non è vero, signore?» «Possono piluccare un po' di tutto, crederei», disse Mr. Stelling, «sono molto dotate di intelligenza superficiale, ma non sono in grado di approfondire nulla, son vivaci e frivole». Entusiasta di questo verdetto, Tom telegrafò a Maggie il proprio trionfo con grandi cenni del capo di dietro la sedia di Mr. Stelling. Quanto a Maggie, di rado si era sentita così mortificata. Era stata così fiera di venir chiamata vivace per tutto il corso della sua minuscola esistenza, ed ecco che questa vivacità appariva come un marchio di inferiorità. Meglio allora essere tarda, come Tom. «Miss Maggie», disse Tom quando furono soli, «vedi che non è poi quella gran cosa essere vivaci? Non ti riuscirà mai di approfondire nulla, lo sai». E Maggie era così oppressa dal suo spaventevole destino che non ebbe il coraggio di reagire. Ma quando quel piccolo impasto di vivacità superficiale fu portato via sulla carretta di Luke e lo studio una volta di più tornò ad essere per Tom del tutto solitario, egli ne sentì dolorosamente la mancanza. Era stato realmente più vivo ed era riuscito meglio nelle sue lezioni finché lei era rimasta lì. E poi ella aveva fatto tante domande a Mr. Stelling sull'impero romano e se davvero c'erano mai stati degli uomini che avessero detto in latino «non lo comprerei nemmeno per un quattrino, nemmeno per una noce marcia», oppure se questa frase era soltanto stata tradotta in latino, che Tom adesso era giunto a capire confusamente che c'era stato una volta un popolo sulla terra così fortunato da sapere il latino senza doverlo imparare sulla grammatica di Eton. Questa luminosa idea fu una grande conquista nelle sue conoscenze storiche di quel primo semestre, che altrimenti si sarebbero limitate ad un piccolo assunto di storia ebraica. Ma il tremendo semestre giunse al termine. Come fu felice Tom nel vedere le ultime foglie secche volteggiare sotto il vento freddo. I pomeriggi bui e la prima neve di dicembre gli parvero di gran lunga più vivi che gli splendidi soli di agosto, e per potersi meglio render conto della fuga dei giorni che alla fine l'avrebbero ricondotto a casa, aveva piantato 3 settimane prima delle vacanze 21 bastoncini in un angolo del giardino. E ogni giorno ne sconficcava uno con grande violenza, buttandolo distante, con una forza di volontà che l'avrebbe mandato fin nel limbo, se fosse stato nella natura dei bastoncini di compiere viaggi tanto remoti. Ma era pure un degno acquisto, anche al duro prezzo della grammatica latina, la felicità di veder brillare la luce nel salotto di casa, mentre la carretta attraversava senza rumore il ponte coperto di neve. La felicità di rientrare dall'aria fredda in mezzo al caldo e ai baci e ai sorrisi del focolare domestico, dove i disegni del tappeto e il camino e la griglia e le molle erano idee innate, altrettanto impossibili da criticarsi quanto la solidità e l'estensione della materia. Non c'è senso di benessere pari a quello che si prova nei luoghi dove si è nati, dove gli oggetti ci sono divenuti cari, avanti che si sia conosciuta la fatica di sceglierli, e dove il mondo esterno ci è sembrato soltanto un'estensione della nostra personalità. Lo abbiamo accettato e amato come abbiamo accettato l'intimo senso della nostra esistenza e il nostro stesso corpo. Molto banale, molto brutto potrebbe apparire quel mobilio della nostra casa se fosse messo in vendita. Il gusto esperto di un tappezziere potrebbe disprezzarlo, ma lo sforzo di sempre migliorare il nostro ambiente non è forse la gran caratteristica che distingue l'uomo dal bruto? O se vogliamo obbedire agli scrupoli di una definizione più accurata, l'essere umano inglese dal bruto straniero? Ma sa il cielo dove un tale sforzo potrebbe condurci se i nostri affetti non avessero dei viticci che li attorcigliano a quelle vecchie cose un po' deteriori? Se gli amori e i puri sentimenti della vita nostra non gettassero delle fonde radici nella memoria? La nostra gioia per una siepe di sambuco che sovrasta il confuso fogliame di un poggio d'alberi fruttiferi ci rallegra più che la vista del più bel citiso o della più bella fucsia fiorenti sulle dolci inflessioni di un prato. E sarà magari una preferenza incomprensibile per un giardiniere o per uno di quegli spiriti severamente disciplinati, i quali si sentono liberi dalle debolezze di qualunque attaccamento che non riposi su una dimostrabile superiorità qualitativa. E non c'è miglior ragione di preferire quella siepe di Sambuco se non che essa sommuove un antico ricordo. Essa non è nella mia vita una cosa nuova che parli solo alla mia presente sensibilità della forma e del colore, bensì una diuturna compagna della mia esistenza che si mescolò con le mie gioie, al tempo che ancora le mie gioie erano vivide. 2. Le vacanze di Natale. Il bel Natale antico con le sue chiome di neve e il volto rubizzo aveva fatto quell'anno il dover suo nel più nobile dei modi, profondendo i suoi ricchi doni di caldo e di colore in tutto il loro contrasto col gelo e con la neve. La neve ammantava i campi e gli argini del fiume con ondulazioni più delicate che le membra di un bimbo. Si stendeva con orli di finissimo contorno sul declivio dei tetti, facendo risaltare il rosso cupo dei comignoli in una nuova profondità di colore. Pesava sui lauri e sui cipressi finché ne cadeva con tonfo echeggiante. Rivestiva di candore i ruvidi campi di rape e faceva parere le gregge simili a chiazze scure. Le porte erano tutte bloccate da cumuli ammonticchiati e qua e là un quadrupede incustodito stava fermo come impietrato in una malinconia senza riposo. Non c'erano luci e non ombre perché anche il cielo era tutto una calma pallida nube. Non suono né movimento in cosa alcuna, forché nel cupo fiume che scorreva e gemeva come una pena senza tregua. Ma rideva il vecchio Natale dopo aver sparso sul mondo di fuori quel crudele incanto, perché voleva far brillare dentro le case una nuova luce, approfondire negli interni la ricchezza dei colori e aggiungere una più acuta punta di delizia al caldo profumo delle vivande. Voleva preparare una dolce prigionia che rinsaldasse la primitiva comunione della parentela e rendesse l'umano raggiare dei volti familiari così benvenuto come quello del celato astro diurno. La sua benevolenza si faceva poco sentire ai senzatetto, poco alle case dove il focolare non era molto caldo e i cibi avevano una povera fragranza, dove i volti umani non avevano splendore, ma solo il plumbeo, cupo, sguardo del bisogno senza speranza. Ma la bella vecchia stagione è così bene intenzionata, e se non ha appreso il segreto di benedire gli uomini con imparzialità, è perché suo padre, il tempo, nelle sue finalità per sempre inesorabili, ancora cela quel segreto dentro il suo potente cuore, dai battiti lenti. E tuttavia questo Natale adonta della nuova gioia che Tom provava nel trovarsi a casa, non gli pareva poi chissà perché felice come era stato sempre. Le bacche rosse erano come sempre abbondanti sull'agrifoglio. Con Maggie egli aveva adornato tutte le finestre e le mensole dei caminetti e le cornici dei quadri con lo stesso gusto di tutti gli altri anni, sposando i folti grappoli rossi coi rami di edera dalle bacche nere. Dopo la mezzanotte s'erano uditi i canti sotto le finestre. Canti soprannaturali, credeva sempre Maggie, quantunque Tom insistesse con disprezzo che i cantori erano il vecchio Pat, il sacrestano della parrocchia, e gli altri coristi della chiesa. Sempre la tremava di venerazione quando i loro concerti irrompevano sui suoi sogni, e l'immagine di uomini vestiti di fustagno era sempre scacciata dalla visione di angeli posati su una nube aperta. Ma quei canti di mezzanotte avevano contribuito come al solito a sollevare la mattina sopra il livello dei giorni ordinari. E poi c'era quell'odor di pane arrostito e di birra che veniva dalla cucina all'ora della colazione, l'antifona prediletta, i grossi rami verdi e il breve sermone conferivano il giusto carattere della festività alla funzione in chiesa. E la zia e lo zio Moss, con tutti i 7 figli, parevano altrettanti riflettori che specchiassero la luminosa fiamma del salotto. Allorché quelli che erano andati in chiesa facevano ritorno stampando le loro orme di neve. Il plum pudding era bello e rotondo come sempre, ed entrava, con la sua simbolica corona di fiamme azzurrine, come fosse stato eroicamente strappato alle vampe infernali in cui l'avevano buttato i dispettici puritani. Le frutte erano splendide come sempre, arance d'oro, noci brune e il cristallo chiaroscuro della gelatina di mele e della conserva di prugne. In tutto ciò, il Natale era quello di sempre per quanto Tom poteva ricordare, e semmai se ne distingueva soltanto per la superiorità delle sdrucciolate e delle palle di neve. Gaio era il Natale, ma non così, Mr. Tulliver. Egli si mostrava irritato e pronto a contraddire, e Tom, quantunque sposasse le animosità paterne e dividesse il paterno senso dell'offesa, risentì un poco dell'impressione che opprimeva Maggie allorquando Mr. Tulliver, nel momento propizio delle frutta, s'era imbarcato con più stentorea voce e con più collera nei propri racconti e rivendicazioni. L'attenzione che Tom avrebbe potuto concentrare sulle sue noci e sul suo vino era sviata dal senso che ci sono a questo mondo dei miserabili nemici e che le faccende della vita possono difficilmente sbrigarsi senza un buon numero di litigi. Ora Tom non aveva nessun entusiasmo per le liti, a meno che si risolvessero rapidamente in una bella e aperta rissa contro un avversario che gli aveva tutte le probabilità di schiacciare. E i discorsi irritati del babbo lo mettevano a disagio, quantunque egli non si fosse mai dichiarato il sentimento, né mai avesse concepito il pensiero che in quest'ordine di cose era suo padre ad aver torto. La speciale incarnazione dello spirito maligno che suscitava attualmente la decisa opposizione di Mr. Tulliver era Mr. Pivart, il quale, possedendo dei terreni a monte della Ripple, stava adottando dei sistemi di irrigazione che erano o sarebbero stati o sarebbero dovuti essere, in base al principio che l'acqua è l'acqua, una violazione ai diritti legittimi di Mr. Tulliver sulla forza motrice dell'acqua. Dix, che aveva un mulino su quella stessa corrente, non era che un debole satellite del vecchio Harry in paragone con Pivart. Dix era stato ricondotto al buon senso da un arbitrato e i consigli di Wakem non l'avevano portato tanto lontano. No, Dix, a parere di Mr. Tulliver, era stato buono quanto si poteva esserlo dal punto di vista della legge, e nell'intensità dello sdegno contro Pivart, il suo disprezzo verso un avversario battuto come Dix cominciava a prender l'aria di un'amichevole simpatia. Quel giorno egli non aveva uditorio maschile, tranne Mr. Moss, che per sua propria dichiarazione non sapeva niente sulla natura dei mulini e poteva soltanto consentire con gli argomenti di Mr. Tulliver in base alla ragione a priori dei rapporti familiari e degli obblighi pecuniari. Ma Mr. Tulliver non parlava con la banale intenzione di convincere il proprio uditorio, parlava per sfogarsi. Mentre il buon Mr. Moss faceva degli sforzi feroci per tenere gli occhi aperti, a dispetto della sonnolenza che un pranzo insolitamente succulento produceva nel suo organismo affaticato. Mrs. Moss, più competente in materia e interessata a tutto ciò che riguardasse il fratello, ascoltava, lasciando cadere una parola tutte le volte che le sue preoccupazioni materne glielo permettevano. Ma Pivart è un nome nuovo da queste parti, non è vero, fratello? Diceva. Non possedeva ancora quei terreni ai tempi del babbo e nemmeno ai tuoi, prima che io mi sposassi. Un nome nuovo? Sì, lo credo bene che è un nome nuovo, disse Mr. Tulliver con irritata enfasi. Il mulino di Dorlcote appartiene alla nostra famiglia da 100 e più anni, e nessuno ha mai sentito parlare di un Pivart che si mischiasse nel fiume. Ed ecco che arriva quest'individuo e ti compera seduta stante la fattoria di Bincom, prima che chiunque altro possa dire bada. Ma lo pivarterò io, soggiunse Mr. Tulliver alzando il bicchiere col sentimento di aver definita la propria decisione in modo da non lasciare dubbi. Oh, spero che non sarai costretto ad intentargli causa, fratello mio, disse Mrs. Moss con una certa ansia. Oh, che cosa sarò costretto a fare non lo so, ma so bene a cosa costringerò lui, con le sue dighe e derigazioni, se c'è qualche legge che possa valere per chi è dalla parte della ragione. So abbastanza bene chi c'è dietro a tutto questo. C'è Wakem a montargli la testa e ad eccitarlo. Wakem gli soffia sotto che la legge non può fargli niente, lo so. Ma c'è ancora della gente capace di maneggiare le leggi, oltre a Wakem. Ci vuole un grosso filibustiere per batterlo. Ma se ne possono trovare dei più grossi che conoscono meglio di lui il diritto e il rovescio delle leggi, altrimenti come andrebbe che Wakem ha perduto il processo di Bramley? Mr. Tulliver era un uomo scrupolosamente onesto e fiero di esserlo, ma riteneva che in materia di leggi i fini della giustizia si potessero conseguire solo adoperando un briccone più forte per paralizzarne uno più debole. La legge era una specie di combattimento di galli, nel quale il compito dell'onestà oppressa consisteva nel trovarsi un volatile da battaglia dotato di maggior coraggio e di più forti speroni. Gore non è uno stupido, non fa bisogno che tu me lo dica, osservò poco dopo in tono aggressivo, come se la povera Gritty avesse insistito sulle capacità di quell'avvocato. Ma vedi, non è al corrente delle leggi come Wakem. E l'acqua è una cosa molto speciale, non si può rubarla con una forcola. Per questo appunto è una bazza per il vecchio Harry e per gli avvocati. A guardarci schietto è abbastanza chiaro quali sono i diritti e quali i torti in materia di acqua, perché un fiume è un fiume, e se tu possiedi un mulino devi avere l'acqua per farlo girare, e non serve di venirmi a raccontare che l'irrigazione e le sciocchezze di Pivart non fermeranno la mia ruota. So ben io cos'è di spettanza dell'acqua. Parlami di quel che dicono gli ingegneri. Ah, io dico che basta il buon senso per capire che le dighe di Pivart mi danneggeranno. Ma se questa è tutta la loro ingegneria, io farò presto a mettere Tom nella partita. E vedrà lui se negli affari dell'ingegneria potrà trovare un po' più di buon senso di quanto ne è stato cavato fuori finora. Tom, guardandosi intorno con una certa ansia all'udire questi annunzi del proprio avvenire, si riprese sbadatamente una raganella con cui faceva giocare la piccola Moss. Ragion per cui la bimba, che sapeva con notevole chiarezza ciò che voleva, manifestò seduta stante i propri sentimenti con acutissimi strilli e non si lasciò placare nemmeno dalla restituzione della raganella, pensando evidentemente che il torto iniziale di avergliela ritolta sussisteva ancora, in tutta la sua forza. Mrs. Moss si affrettò a portarla in un'altra camera, e a Mrs. Tulliver, che l'accompagnava, espresse la convinzione che quella cara bimba aveva le sue buone ragioni per piangere, sottintendendo che povera bimba sarebbe stata un'incompresa se si fosse creduto che faceva un capriccio per la raganella. Placato quel pianto perfettamente legittimo, Mrs. Moss guardò la cognata e disse: «Mi spiace di vedere mio fratello così esasperato per questo affare dell'acqua. Oh! È il sistema di vostro fratello, Mrs. Moss. Prima che mi sposassi non m'erano mai capitate cose di questo genere», disse Mrs. Tulliver con un mezzo rimprovero implicito, parlando del marito con Mrs. Moss, lo chiamava vostro fratello in tutti i casi nei quali la condotta di lui non fosse argomento di pura ammirazione. La buona Mrs. Tulliver che in vita sua non aveva mai fiele. Possedeva tuttavia anche lei una modesta parte di quello spirito senza di cui non sarebbe stata una Dodson prima di tutto e poi una donna. Stando sempre sulle difese di fronte alle sorelle, era naturale che fosse acutamente consapevole della propria superiorità, sia pure come la più debole delle Dodson, nei confronti di una sorella del marito, che oltre ad essere povera e disposta a farsi pesare sul fratello, aveva una bonaria remissività di donna grossa, mite, sciatta e prolifica, fornita di una tal dose di affettività da bastare non solo per il marito e per l'abbondante figliolanza, ma anche per i numerosi parenti collaterali. Spero e prego Dio che non farà cause, disse Mrs. Moss, perché non si sa mai dove si va a finire. Non sempre è il diritto ad avere ragione. Questo Mr. Pivart, per quel che posso capirne, è un ricco. E i ricchi per lo più riescono a tirar tutto dalla loro. Quanto a questo, disse Mrs. Tulliver, lisciandosi la veste, l'ho visto io nella mia famiglia che cosa sono i ricchi, perché le mie sorelle hanno preso dei mariti che possono magnificamente permettersi di fare tutto quello che a loro pare e piace. Ma qualche volta penso che finirò col perdere la testa con tutti questi discorsi sulle leggi e sull'irrigazione. E le mie sorelle buttano su di me tutta la colpa perché non sanno che cosa sia sposare un uomo come vostro fratello e come lo potrebbero. Sorella Pallet fa di testa sua dal mattino alla sera. Beh, disse Mrs. Moss, io credo che non vorrei bene a mio marito se non avesse qualche idea per proprio conto e dovessi io avere testa per lui. È tanto più facile di far quel che piace al proprio marito che di rompersi il capo per sapere quel che sia da fare. Ah! Oh, se si parla di fare ciò che piace al proprio marito, disse Mrs. Tulliver con una leggera imitazione della sorella Glegg, sono sicura che vostro fratello avrebbe potuto aspettare un bel pezzo prima di trovare una moglie come me, disposta a lasciargli dire la sua in tutto e per tutto. Adesso non c'è più che leggi ed irrigazione, dal mattino quando ci si alza fino alla sera quando ci si corica. E io non lo contraddico mai, gli dico soltanto bene, Mr. Tulliver, fa come ti pare, ma qualunque cosa tu faccia, non metterti nelle cause.